Per la serie Scienziati ancora uno sforzo, ovvero la rivoluzione francese vista attraverso la scienza del tempo, Antonio Caronia ci racconta Pierre Simon Laplace, l'opportunista. Parliamo oggi della vita di un grande matematico fra il 700 e l'800 francese, è Pierre Simon de Laplace, che insieme con Lagrange domina un po' la generazione di matematici che viene dopo il grande Eulero, questo svizzero vissuto in Germania a lungo. Bene, questo Pierre Simon Laplace nasce a Beaumont-en-Auge, che è un paesino del Calvados, il 23 marzo del 1749. Della sua infanzia sappiamo molto poco, perché lui se ne vergognava un po' dopo, durante il corso della insomma, sua vita, di queste origini un po' umili. Però pare che sino da piccolo fosse, diciamo, dimostrasse doti non insomma, comuni, insospettabili, fra l'altro anche eccellendo fin da piccolo in discussioni religiose, il che è molto come dire, singolare per una insomma, persona che poi invece nel corso della sua vita professò in insomma, età matura un ateismo abbastanza radicale. E quindi venne subito mandato a una scuola, militare, appunto quella di Beaumont, con diciamo, l'aiuto di una famiglia di contadini insomma, vicini che erano un po' più ricchi dei suoi, e lì si mise subito in luce, pare che avesse una memoria prodigiosa, eccezionale, e quindi finiti gli studi nel 1767, quando aveva 18 anni, finiti gli studi secondari, insomma, viene subito inviato a Parigi con una lettera di diciamo, raccomandazione per uno dei più grandi matematici dell'epoca, che era appunto D'Alembert. Ecco, lì c'è una diceria che però tornerà spesso in queste biografie di scienziati della rivoluzione, e cioè che la lettera di raccomandazione fosse del comandante della Rocca di Beaumont, che era appunto anche la scuola militare del posto, e da massone a massone, cioè militare massone, a D'Alembert. A D'Alembert massone. Ecco, però va detto che appunto D'Alembert era un, come dire, massone di tipo abbastanza particolare, cioè spregiava, come sarebbe forse carino che succedesse pure oggi, tutta questa gente che gli arrivava a raccomandare. Per cui lui non apre neanche la lettera, insomma, e non diciamo, riceve neanche Laplace, il quale, sconfortato, se ne deve temporaneamente tornare a come dire, Beaumont. Qui però ha una intuizione, bisogna dire, geniale, la prima forse della sua vita, che è quella appunto di lasciare perdere questi contatti, eccetera, e scrivere invece una bella lettera di argomento scientifico allo stesso, diciamo, D'Alembert, in cui espone, fa le sue dissertazioni sui principi generali della meccanica. D'Alembert legge questa lettera ed è fulminato, stupito. E allora gli risponde in questo modo, vi leggo un pezzo della lettera di risposta di D'Alembert: «Signore, vedete bene che faccio poco caso alle raccomandazioni. Voi non ne avevate bisogno e vi siete fatto conoscere assai meglio da voi stesso. Questo mi basta, il mio appoggio è vostro». E forte di questo appoggio, appunto, a soli 21 anni Laplace viene nominato professore di matematica alla scuola militare di Parigi. Bisogna dire che in questo periodo molta parte delle scienze passa attraverso le scuole militari, specialmente in Francia, che ha, diciamo, differenza di altri insomma, paesi, in particolare per esempio della Germania, vede sempre la attività scientifica collegata con delle possibili applicazioni pratiche, e fra queste ovviamente quelle di tipo militare sono preminenti. È qui, in questa scuola e appunto a Parigi, che negli anni fra il 1769 e il 1770 Laplace comincia a, diciamo, dedicarsi al grande progetto della sua vita, di cui parleremo meglio nelle prossime puntate, che è quello di sviluppare la legge della gravitazione universale, che diciamo enunciata da Newton e che stava già dominando da quasi 100 anni ormai il panorama scientifico dell'epoca, per descrivere attraverso gli sviluppi rigorosi di questa legge della gravitazione universale tutto il sistema solare, cioè tutta l'attività, le relazioni, interrelazioni fra tutti i corpi celesti che compongono questo pianeta. Infatti questa sarà una delle grandi opere della sua vita. A soli 24 anni, infatti, nel 1773 presenta un lavoro all'Accademia delle Scienze in cui dimostra, una cosa molto importante per l'epoca, che le distanze medie dei pianeti dal Sole sono costanti e che quindi tutte queste fluttuazioni che venivano all'epoca esaminate con l'osservazione scientifica, empirica, pratica, e che sembravano in qualche misura discordare dalle leggi generali di Newton, erano in realtà riconducibili a questa legge perché erano delle fluttuazioni intorno a dei valori medi, quindi voglio dire il sistema solare in qualche modo sembrava essere stabile e non instabile come invece si poteva supporre, si poteva pensare. L'Accademia delle Scienze ne fa, infatti, apprezza tanto questa cosa che lo nomina membro associato. Nel 1784 abbiamo un'altra opera importante di Laplace, una cosa un po' strana, ed è una memoria sul calore che egli pubblica insieme con il chimico Lavoisier, nella quale entrambi collaborano per introdurre per la prima volta il concetto di calore specifico, che è un concetto, come tutti voi sapete, fondamentale per gli sviluppi scientifici successivi. Ed arriviamo finalmente al 1785, anno cruciale della vita di Pierre-Simon Laplace, in cui accadono tre cose, direi, fondamentali. La prima, lui ha 36 anni in quest'anno, la prima è la pubblicazione di un'altra opera importante, Teoria delle attrazioni degli sferoidi e delle figure dei pianeti. Quindi ancora in astronomia. È sempre in astronomia, perché questa era la grande idea, la grande direttrice della sua vita. Seconda cosa, viene nominato membro permanente e non più membro associato dell'Accademia delle Scienze. E terza cosa, gli capita quello stesso anno di esaminare per la scuola militare un giovane candidato di 16 anni, un giovane corso di nome Napoleone Bonaparte, che è promettente infatti, che passa naturalmente l'esame a pieni voti e da qui comincia poi questo rapporto che poi dopo vedremo avrà una certa importanza nella sua vita. Abbiamo lasciato ieri Laplace nel 1785 ad esaminare Napoleone e a ammetterlo alla scuola militare. Mi sembra che addirittura poi Napoleone gli succederà in questa cattedra, di matematica, che è una cattedra cruciale, vedete. Nel 1789, quindi, Laplace ha 40 anni, è direi ormai uno scienziato affermato, famoso nell'ambito della scena francese, ma già anche europea, e però naturalmente è in qualche modo compromesso con il regime passato. Si potrebbe quindi sospettare che durante la rivoluzione Pierre-Simon Laplace passi qualche guaio, come alcuni altri suoi colleghi scienziati passarono. Invece a sorpresa, niente affatto, non capita nulla di tutto questo. Laplace viene mantenuto nei suoi incarichi, nelle sue cose, eccetera, e anzi la rivoluzione lo utilizza in varie attività, come utilizza anche il suo grande collega di 10 anni più vecchio, Lagrange, che è raggiunto da poco invece a Parigi. Entrambi per esempio lavorano per delle cose pratiche di un certo però rilievo per la Francia, come in quel periodo, come il calcolo delle traiettorie dei proiettili per l'artiglieria, e addirittura vengono utilizzati per dirigere nuovi processi di fabbricazione di polvere da sparo, quindi c'erano degli interessi anche. Ecco, qui però cominciano a venire fuori alcune caratteristiche di Laplace che insomma, saranno ancora più forti in lui man mano che passa il tempo, e cioè una sua accentuata capacità di come dire, cavalcare diverse insomma, cavalcature, di passare disinvoltamente da un campo all'altro, quindi da diciamo, suddito fedele di Sua Maestà a sembra rivoluzionario e insomma comunque repubblicano convinto, al servizio della rivoluzione, al servizio della rivoluzione, certo, il tutto sempre con una cosa che poi dopo vedremo, con una voglia con una terribile ambizione, una voglia di primeggiare, di essere sempre al centro dell'attenzione insomma, eccetera. Ma bisogna dire che la carriera, una vera e propria carriera politica di appunto Laplace comincia dopo, diciamo, Termidoro, con i due appunto direttori e soprattutto con l'ascesa di Napoleone. Napoleone, memore del suo vecchio professore, anzi del suo vecchio esaminatore alla scuola militare, addirittura gli dà tutte le onorificenze possibili dell'impero, da tutte queste robe che si era inventato, a tutte le croci possibili sono appuntate sul petto di Laplace. Addirittura lo proclama conte dell'impero e ad un certo punto addirittura Laplace viene nominato ministro degli interni. Già sì, sotto il primo consolato. Adesso sotto posso primo fare consolato. Una... Sì, no, come no. Come dire, raccontare una perfidia, cioè nelle Memorie del Tempo, adesso non mi ricordo più se della marescialla Junot o così, si racconta che Laplace si faceva, ogni volta che aveva una nuova uniforme, perché man mano che Napoleone Bonaparte lo insigniva, lui si faceva fare debite uniforme e scompariva per qualche giorno per farsi ritrarre. Ritrarre, no? E quindi c'era una serie di ritratti con sempre maggior medaglie, maggiori. Perché la sua vanità era pari alla sua ambizione. Infatti, era proprio un personaggio così. Bisogna dire che però più tardi Napoleone a Sant'Elena darà di lui un insomma, giudizio un po' pungente, bisogna dire. Qui vi leggo un pezzo breve. Diceva Napoleone: matematico di prim'ordine, Laplace non ha tardato a rivelarsi un mediocre amministratore. Fin dal suo primo atto ci siamo accorti di esserci ingannati. Laplace non vedeva nessuna questione sotto il suo vero punto di vista, cercava sempre di sottilizzare e aveva idee discutibili. In una parola, portava nella amministrazione lo spirito degli infinitamente piccoli. Vabbè, questa era una sua battuta di Napoleone. In realtà Laplace credo che abbia dimostrato anche in questo campo una notevole, diciamo, una buona dose di disponibilità, di adattamento, ecco, era proprio un tipico camaleonte di quelli, e forse per questo anche la sua, come dire, le sue divergenze con Fouché. C'è un altro così episodio carino che vale la pena di, diciamo, citare. In una sua opera del 1796 che si chiama Esposizione del sistema del mondo, che è una opera abbastanza bella, divulgativa sulle sue idee generali sulla meccanica. E notate il particolare, per chi fa collezione di libri antichi, che all'epoca, vicinissima alla rivoluzione, lui si firma ancora Laplace e basta. Laplace, certo. Mentre i libri successivi saranno De Laplace. De Laplace, ecco, allora in questo ancora, infatti. La prima edizione di questo libro è appunto dedicata al Consiglio dei 500 e termina con delle insomma parole che già fanno presagire il clima dell'epoca, no? E dice, per esempio: il più grande beneficio delle alte conoscenze astronomiche è quello di avere dissipato i timori causati dai fenomeni celesti e di avere distrutto gli errori nati dall'ignoranza nei nostri veri rapporti con la natura. Errori tanto più funesti in quanto l'ordine sociale deve riposare unicamente su questi rapporti. Verità e giustizia, ecco le sue leggi immutabili. Lungi da noi la pericolosa massima che è qualche volta utile allontanarsene ed ingannare o asservire gli uomini per assicurare la loro felicità. Quindi siamo già in qui. Quando qualche anno più tardi, in piena, diciamo, restaurazione, lui ristampa quest'opera, invece questo passo viene soppresso e viene sostituito con uno molto più neutro, in cui dice: queste leggi di insomma natura hanno reso dei grandi servigi alla navigazione e alla geometria, ma il loro più grande beneficio è quello di avere dissipato i timori causati dai fenomeni celesti e avere distrutto gli errori nati dall'ignoranza con i nostri veri rapporti con la natura, errori che non tardano ad apparire di nuovo se la fiaccola della scienza si spegne. Quindi è uno che proprio calibra addirittura le, diciamo, ristampe delle insomma sue opere a seconda del clima politico generale, toglie e mette certe cose. Bene, abbiamo visto nei giorni scorsi un po' le tappe principali della vita, insomma, in parte anche privata, ma soprattutto pubblica di questo Laplace, che poi è effettivamente un personaggio pubblico. E, bene, ma che per quali cose è, insomma, ricordato dal punto di vista scientifico Laplace, che cosa ci rimane ancora di lui? Beh, abbiamo già citato alcune delle sue opere precedenti alla, diciamo, rivoluzione o, immediatamente successive. Abbiamo visto questa esposizione del sistema del mondo del 1796, ma in realtà la sua grande opera, la grande opera per cui ancora oggi è comunque, insomma, in qualche modo ricordato, e che è poi il grande impegno della sua vita, è La meccanica celeste, che è un ponderosissimo trattato. I primi due volumi compaiono nel 1799, poi compare un terzo volume nel 1802, un quarto nel 1805, addirittura un quinto conclusivo negli anni fra il 1823 e il 1825, a ridosso quasi della sua morte, insomma. Qual è il progetto che c'è dietro a questa cosa? È quello che abbiamo detto un po' la volta scorsa, cioè quello di riscrivere in modo molto più dettagliato di quanto Newton non avesse ovviamente potuto fare il comportamento del sistema solare, e quindi, diciamo, dimostrare in qualche modo che effettivamente tutti i corpi, diciamo, celesti obbediscono in, come dire, maniera abbastanza regolare alle leggi che si possono dedurre dalla legge generale della gravitazione di Newton, perché, come si può ben capire, una volta enunciata questa legge c'era un grossissimo problema enorme, diciamo, di accordo di questo principio generale con i dati sperimentali. Per fare questo, naturalmente, questo era il grande problema della scienza del, diciamo, 700, insomma, e bisognava sviluppare una quantità, diciamo, risolvere una quantità di problemi fisici particolari, attrazione di un corpo sull'altro, quando, per esempio, in, come dire, presenza di questa attrazione ci sono altri corpi vicini che attraggono, per esempio, e quindi sviluppare una matematica particolare che è appunto la, diciamo, matematica del cosiddetto calcolo integrale e, diciamo, differenziale, con cui oggi i nostri studenti degli studi tecnici si, diciamo, sollazzano fin dai 16-17 anni, ma che, diciamo, allora non era così sviluppato, non era così, diciamo, preciso, no? C'è un giudizio, c'è una qualcosa che ha scritto Fourier su questa opera di, diciamo, Laplace, che vale la pena di leggere perché spiega abbastanza concisamente qual era il criterio, insomma, diciamo, generale. Fourier scriverà appunto più tardi: Laplace ha dato a tutti i suoi lavori un indirizzo costante e unico da cui non si è mai allontanato, perché la costanza imperturbabile delle sue vedute scientifiche, non certamente politiche, come abbiamo visto, questa costanza imperturbabile è sempre stato il tratto caratteristico del suo genio. Meditò profondamente sul suo glorioso disegno e poi passò tutta la sua vita a compierlo con una perseveranza di cui la storia delle scienze non offre forse nessun altro esempio. Egli si propose di comporre l'Almagesto del suo secolo. L'Almagesto, come tutti sapete, è l'opera di Tolomeo nella quale veniva esposto il sistema tolemaico. Egli si propose di compiere l'Almagesto del suo secolo, il monumento che ci ha appunto lasciato sotto il nome di Meccanica Celeste, e il suo lavoro immortale vince quello di Tolomeo, come la scienza analitica, leggiamo oggi l'analisi matematica, dei moderni vince gli elementi di Euclide. E adesso arriviamo ai punti dolenti, cioè la matematica. La matematica. Beh, in effetti qualunque studente di un, insomma, liceo scientifico, beh, forse no, ma insomma di un primo anno di ingegneria, sa che il nome di Laplace è ancora oggi associato a due, diciamo, strumenti matematici di uso appunto comune, uno dei quali è l'operatore di Laplace e l'altro è la cosiddetta trasformata di Laplace. L'operatore di Laplace riusciamo a chiarire abbastanza difficile, perché l'operatore di Laplace è semplicemente, se dico il nome tecnico si può dire, ma è la somma delle derivate parziali seconde di una certa funzione. Per i non specialisti questo significa ben poco, che in genere questo, diciamo, operatore è uguale a zero, quindi questa costituisce una certa equazione A che cosa serve questa cosa? Beh, in termini sintetici serve per questo, quando noi abbiamo di fronte appunto problemi come quello che ho detto prima, attrazione di vari corpi, eccetera, di norma le equazioni differenziali, che sono le equazioni che descrivono il moto di questi corpi, hanno una grande quantità di variabili ed è quindi abbastanza difficile risolverle. I grandi matematici dell'epoca, da appunto Eulero a insomma, D'Alembert ai Bernoulli, eccetera, erano tutti dei grandi risolutori di equazioni differenziali perché questo serviva per la insomma, fisica. Invece con questo operatore di diciamo Laplace si fa una cosa molto semplice, si riesce ad esprimere almeno una gran parte di queste equazioni differenziali con molte diciamo variabili con una sola variabile, con una sola funzione. Questa funzione è quella che oggi è nota col nome di potenziale e il concetto di potenziale è uno dei insomma, concetti direi fondamentali della fisica moderna, la fisica appunto moderna classica, perché lo si ritrova in un sacco di fenomeni disparatissimi, c'è un potenziale gravitazionale, un potenziale elettrico, un potenziale, cioè è questo, come dire, potenziale è una funzione che esprime ciò che il sistema considerato in quel, come dire, momento è in grado di fare o di non fare e a quali vincoli, a quali limiti viene diciamo sottoposto. Ecco, quindi questa costanza di Laplace ha dato anche un'unità di riferimento, un operatore di riferimento. Anche se pare poi che anche qui insomma il modo scientifico di procedere di Laplace era abbastanza disinvolto, questo concetto di potenziale in realtà lo si trova già per esempio in Lagrange, lo si trova in... Ecco, lui però, come dire, un po' disinvoltamente se n'è appropriato ed è riuscito a svilupparlo, definirlo, eccetera. Comunque insomma il diciamo lavoro di Laplace è veramente un grossissimo lavoro perché in pratica uno dei più grossi contributi insomma che lui ha dato è stato quello sulla scorta di quel lavoro giovanile di cui abbiamo parlato nelle volte scorse di dimostrare che le irregolarità dei dati registrate nelle orbite dei singoli pianeti eccetera non erano in disaccordo ma erano in accordo con la teoria generale, perché naturalmente noi oggi diciamo le orbite sappiamo le leggi di Kepler, le orbite dei pianeti sono ellittiche, ecco questa ovviamente è una grande semplificazione, in realtà le orbite dei pianeti non sono affatto ellittiche. Perché non sono ellittiche? Beh, perché sarebbero ellittiche solo se ci fosse un solo pianeta che gira intorno a una sola stella. Quando ci sono vari pianeti che girano è chiaro che le attrazioni dei singoli pianeti disturbano il moto, ideale, ellittico del pianeta in questione, quindi abbiamo tutta una serie di irregolarità. Aggiungiamo per, come dire, rinfoltire le variabili che spesso questi pianeti hanno a loro volta dei satelliti. E infatti non a caso il primo grande problema era questo problema detto dei tre corpi, che è un grande problema della fisica matematica del Settecento, in cui appunto si studia il moto relativo di Sole, Terra e diciamo Luna proprio in presenza. Quindi sia pure trascurando robe tipo maree, eccetera, già la sola presenza di tre corpi, Lagrange, come poi vedremo, aveva brillantemente risolto questo problema dei tre diciamo, corpi, crea appunto tutte queste irregolarità. Ora il grande problema della fisica dell'epoca era, ma tutte queste irregolarità sono tali da conservare il sistema diciamo, solare stabile oppure prima o poi non ci sarà una instabilità, non si andrà verso una rottura d'equilibrio. Ecco. È la fine della Terra. Esatto, è la fine. Allora, in modo un po' forse ingenuo rispetto alle nostre conoscenze di oggi, ma Laplace dimostrò che effettivamente questa diciamo stabilità c'era. Lui praticamente risolse una sorta di problema dei tre corpi, non per tre corpi, ma per tutti i pianeti del diciamo, sistema solare. In particolare, per esempio, dimostrò che le irregolarità delle eccentricità delle orbite, cioè queste orbite dovrebbero essere ellittiche, quindi avere un certo valore numerico detto eccentricità che varia da lì a lì. Se invece questa eccentricità non è, diciamo, regolare, però non è, appunto, dimostrò Laplace, irregolare in modo caotico. È ancora una volta irregolare secondo certe oscillazioni intorno a certi valori fissi e quindi questo dimostra in qualche modo la stabilità. Fra le previsioni che le cose, il suo lavoro di diciamo Laplace consentì di fare, c'era per esempio la previsione della esistenza di un ulteriore pianeta oltre l'orbita di, diciamo, Saturno, che era allora il pianeta più lontano conosciuto. Questo pianeta è appunto Nettuno, che venne poi scoperto però successivamente, più tardi, ma era già stato previsto teoricamente nel sistema di appunto Laplace, proprio tramite... Cioè l'aveva calcolato matematicamente. Aveva calcolato, ma dice le irregolarità dell'orbita di appunto Saturno-Giove potrebbero essere dovute alla presenza di un ulteriore pianeta, che era appunto Nettuno. Herschel poi lo scoprì in modo, ecco, anche perché con gli strumenti dell'epoca sarebbe stato difficilissimo anche per Herschel trovare, diciamo, Nettuno, ma sapendo dai calcoli fatti da Laplace grosso modo dove bisognava guardare, fu più facile evidentemente scoprirlo, insomma. Quindi questa è il più grande contributo, almeno uno dei più grandi contributi di, insomma, Laplace alla scienza del suo tempo sul piano astronomico. Bisogna ancora rapidissimamente ricordare che sempre in modo abbastanza disinvolto Laplace riprese una ipotesi già fatta da Kant, però forse lui non lo sapeva, può anche darsi, sulla origine del sistema appunto solare collegato con le nebulose, che erano quell'epoca venivano osservate per la prima volta questi strani ammassi, queste strane cose che non erano né stelle né, diciamo, pianeti, cosa potevano essere, venivano chiamate appunto nebulose. E questa ipotesi che il sistema appunto solare e tutto quanto l'universo derivi dalla condensazione progressiva di alcune primitive nebulose, cioè masse di materia, venne rifatta anche da Laplace. Già Kant l'aveva parlato, ed è una straordinaria intuizione, perché poi in termini certamente diversi, ma si è visto che una parte del processo di formazione dell'universo è in parte forse avvenuta proprio, insomma, così, ecco. Per scienziati ancora uno sforzo, state ascoltando La vita di Pierre-Simon Laplace, l'opportunista, raccontata da Antonio Caronia. Potete girare la cassetta.